Benvenuti in Now You Don't, no, episodio 214, non lo so. Stai aspettando che te lo diciamo noi? Sì, sto aspettando che qualcuno mi confermi. Sì, siamo 13 forse. Perché non ci sono le attività su Discord? Vedi che non c'è, vabbè, spero che stia registrando. Vai. Altrimenti faccio ripartire creds. Aspetta. Sì, 29 secondi. No, di solito mi dà l'attività quando... Ah, forse siamo partiti tutti e due allo zero spaccato. Vabbè, benvenuti. Stasera puntata un po' diversa, recuperiamo un po' di serie TV e cose che abbiamo visto. E siamo io, Angela e Jacopo. Ciao. Ciao. Andrea ci ha salutato perché è morente, per cose migliori. Per dormire. Sì. Preparare il pranzo. E allora, da cosa cominciamo? Abbiamo un sacco di roba da recuperare perché non registriamo da 1000 anni. E noi abbiamo cose belle e cose brutte. Tu hai tante serie più di me, in realtà. Io ho tante cose brutte, allora, però non facciamo disclaimer delle cose che guardo. Comincio mettendo le mani avanti. Io ho guardato poca roba perché sto guardando One Piece, che non ho mai visto. Non l'avevo mai visto nella mia vita. E ho guardato in 4 mesi 600 episodi. 3 mesi. 2 mesi. Un mese. No, era sui 600 episodi, visto gli skip. Vabbè, sì, insomma. E quindi ho avuto meno tempo per guardare altro coso. Però dai, qualcosa lo... L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Da cosa vogliamo cominciare? Mettiamo la top 10. No, non abbiamo la classifica. No, non sono preparata. No, io ho una domanda per Jacopo, subito. Ha iniziato Gen V? O ha intenzione di guardarla? Non l'ho ancora vista, ma la guarderò. Non ho ancora iniziata. Sì, anche perché escono un episodio a settimana, quindi non è che hai molto da recuperare. Ok, ho molta paura per il motivo per questa domanda, però. No, io ho visto soltanto il primo episodio e poi, mentre prima registravate, ho iniziato il secondo. E molto in linea con la stagione precedente, devo dire. Ok. E no, ero curiosa di sapere se... Cioè, se tu sapessi... Vabbè, c'è l'attore che è morto, Sì, lo so. quindi chiaramente non può comparire in tutta la serie. Ed ero curiosa di sapere se tu sapessi se quando l'avevano registrata, se prima o dopo... Non lo so onestamente come hanno fatto, cioè se ci sono delle scene con lui, non so se sono scene prese dalla prima o se sono scene che aveva girato prima di morire, e non saprei. Perché Non secondo me so. hanno iniziato a girare dopo. Ok. Quindi, O magari però... avevano del materiale che appunto gli avanzava o comunque avevano già cominciato a girare. Non so, a me la Vedi? prima era piaciuta, A quindi me la se prima era mi dici che è in linea. piaciuta. Cioè, Sì. penso che come progetto loro si aspettino di farlo durare, quindi immagino che... Ma penso che punteranno a un certo punto a farlo collassare in The Boys. Cioè, secondo La me... prossima è l'ultima di The Boys, quindi immagino che Ah, guarda, guarda. No, finiranno... Sì. allora, per ora il primo episodio mi è piaciuto. Però poi mi dirai. Ok, ma Da dove partiamo? esatto, di cosa volete discutere? Avete Tira qualcosina di fuori l'elefante della listone? stanza. Qual è l'elefante della stanza? The Bear. Ah no, abbiamo visto The Bear, ma in realtà abbiamo già detto che non è stato nominato a niente, però la serie non è male. Secondo me dovrebbero, allora, mio modesto parere. Una serie che comunque adesso, l'ultima stagione di The Bear esce di solito, The Bear usciva sempre verso agosto, no? Sì. Ed è uscita la quinta, cos'è? La quarta? Quarta. Quarta? Quarta. Quinta? Quarta. Secondo me devono puntare a chiudere. Non dico che ha rotto i coglioni, però dal mio Però lo punto dici. di vista, cioè come trama ci sta andando molto vicino. Hanno cose da dire, però... A me è piaciuta la stagione. No, mi è piaciuta, mi è piaciuta. A me è piaciuta forse più della... Qual è quella che non ci è piaciuta tanto? La terza? Che Una terza, forse. era un pochino più Boh. scarica. Sì, sono sì, l'ultima era un po' più scarica. Cioè, comunque era bella, però non bella come quella precedente. Questa invece mi è piaciuta di nuovo molto. Mi pare di aver letto che la prossima stagione però è l'ultima, che non è prevista una stagione 6. Speriamo. Come speriamo? Con tutte le cose brutte che ma fanno. Ma dovete smettervi di attaccarvi alle cose, cioè se ha una conclusione ed è bella, teniamo la conclusione, no? Sì, ma poi puoi farci uno spin-off tipo The ma Boys. Ma no, ma cosa siamo, negli anni 2000? Cioè ti fanno un sacco di cose brutte, le cose belle vanno preservate. E, no, a me è piaciuta, sì, anche a me. E è bello The Boys perché... The Boys. Sì, The Boys, The Bear perché... è una serie che mi fa sentire il tempo che passa, nel senso che gli avvenimenti di un episodio magari sono un giorno, quindi per la prima volta... Mezz'ora. Esatto, per la prima volta ho un episodio di 40 minuti, un'ora, che però rappresenta un giorno, non una settimana o eventi casuali. Ed è figo come cosa. Cioè mi fa proprio sentire nel momento, ecco. A me questa roba scombussola un po' perché, cioè, di solito le serie TV appunto rappresentano più tempo e quindi non riesco a capire quanto tempo sia effettivamente passato dalla prima all'ultima stagione. Perché è subito dopo. Sì. Sì, un po' è vero. Però sì, come dice Salla, a me è piaciuto che in questa stagione il tempo è molto più... È molto lento. Scandito, eh? Anche se non ti, diciamo, non ti rendi troppo conto, perché comunque è contato in ore, è bello perché comunque passa più lentamente e ti rendi anche conto della... cioè questa sensazione appunto di urgenza in tutta la stagione che nella terza un po' si era perso. Mm. Nonostante ci fosse già, nel senso che anche nella terza non è che fossero proprio tranquillissimi in quella cucina. A me è piaciuta tantissimo questa stagione, cioè per me è stata la stagione migliore a pari merito con la seconda, forse per The Bear. È la seconda che avevano il countdown, sì, secondo per fare il ristorante che li mandava poi via, cioè a fare le cose. Sì, ok. No, perché pensavo che quella fosse la terza, invece non mi sono reso conto che la terza quella era dopo. No, allora si conferma. Da un lato vorrei che continuasse per sempre, da un lato sono d'accordo con Salla che si deve levare dai coglioni, cioè nel senso sta arrivando sta arrivando a dire quello che doveva dire e sì, non ci vorrà più di una stagione. Sì, esatto, un senso di ansia che lui perseguita da 4 stagioni, perché alla fine è quello. A una certa però... No, il punto è che però in realtà passa tipo appunto un anno, non è capisci. Lui questo roba. Ma per noi no, lo capisci? Per noi è passato un di 4 anni. Vabbè. E l'altra cosa che abbiamo visto forse tutte e tre, è però noi non siamo in pari, Only Murders in the Building. Ah, è vero. È vero. Che è carina! Sì, è troppo carina, sta sempre carini. Che bello. Ah, no, anche questa è più carina dell'ultima. Sì. Dell'ultima, sì. Ma che cazzo dite che nell'ultima... Vabbè, no, non aspetta, voglio dire spoiler. Quella teatro mi era piaciuta. No, l'ultima è quella di... Ah, no, non mi era piaciuta tanto. Quella di quelle di fronte. Sì. Però l'ultima è comunque è bellezza, cioè sono tutte bellette. Cioè, no, bella, però è bellina. Se voglio fare una classifica, cioè, mi è piaciuta di più questa. È come The Bear 3. Mi sta piacendo di più questa dell'ultima. Cioè, è come The Bear 3, non è che la terza sia brutta, è meno bella delle altre stagioni. Preferisco Only Murders in the Building. Ma in realtà tu preferisci Only Murders in the Building da The Bear, cioè non è... Insomma, che abbiamo scoperto tra l'altro che c'è un podcast su Spotify. Sì, è vero. Che non è Only Murders in the Building, è qualcos'altro, tipo dietro le quinte. Cazzo, sì, sono tipo gli sceneggiatori che intervistano. Ma perché? Ma fatemi allora gli episodi in podcast a sto punto. Beh, quanto ne vuoi. Sarebbe troppo figo, cioè... Vabbè. Niente. Vai, sparaci qualcosa che non abbiamo visto. Secondo me voi non avete visto Peacemaker? No. No. Non ho visto manco la prima. Peacemaker è bellissimo. Non capite. L'hai detto anche la prima, però non... Lo so, nessuno... Peacemaker è una di quelle serie TV che non... Cioè, non conosco nessuno nella vita reale che la guarda. Cioè, è come se ci fossi solo io e altre persone degenerate. Chi ha votato Berlusconi. Esatto. Sono altre persone degeneri... Malate, cioè proprio sceme che hanno visto insieme. E io adoro James Gunn, cioè James Gunn tutto quello che fa non è un capolavoro, ma lo fa bene. ho adorato Superman, ho adorato Peacemaker, ho adorato The Suicide Squad, sono tutti film molto molto belli. Suicide Squad? No, The Suicide Squad. Anche sul secondo. Il primo ne abbiamo già parlato. E quindi niente, continuerò a seguirlo e a vedere cosa fa. Però di recente ho visto anche due serie che forse... Allora, una è Adolescence. Io ho un po' paura a vederla. Mi mette ansia. Fai bene ad avere paura. È molto inquietante, è molto strana. Non è quello che pensavo che fosse. È molto interessante, ma ho anche alcuni problemi con quella serie. Diciamo che è troppo lungo per parlarne, quindi vi dico solo... è interessante. Non so cos'altro dire senza spoilerarvi. Sapete com'è fatta? Cioè, qual è il... No. È una serie, sono quattro puntate, sono solo quattro puntate da circa un'ora e 40 minuti l'una. Quindi è un grandissimo film, diciamo. Ed è... ogni puntata è un'unica... come si dice... un unico piano sequenza, ovviamente finto, oddio, nel senso che ci sono, sì, no, dei dettagli, cioè, finti. Un'ora, ma... di piano sequenza, cioè gli attori sono morti e anche Bear, l'ultimo episodio non so come andrò. Vabbè, ma non è un'ora di piano sequenza, è finto. Sì. Vabbè, comunque. Ed è interessante, no? è molto intrigato tecnicamente per farle. È anche interessante perché non usano i trucchetti che usa tipo Birdman per far andare avanti il tempo. Diciamo che il tempo va avanti solo a fuori camera, cioè solo tra un episodio e l'altro. Quindi dentro l'episodio è tutto in tempo reale, mettiamola così. È tutto è molto molto carina, interessante, però insomma ha dei problemi. Poi ho visto Alien Earth, che è molto bella, però se non vi piace la serie di Alien non guardatela, perché è più Alien, diciamo. Non ho idea di cosa stia parlando, quindi mi fido. Alien pianeta Terra. Sì. Alien. Alien originale, ho visto Alien l'originale. Ok. Alien originale. Immaginati Alien sulla Terra, cioè che è come dire, è la prima serie o film su Alien che vedo, anche considerando Prometheus, queste cose qua. Io credo di aver visto solo, dice... Prometheus. Che culo. Lo so, ero quando andato al cinema a vederlo, penso. Era la prima serie... Non riesco a scoprire cosa vedere. Che dice, ok, sapete cos'è un alien, sapete come funziona, andiamo oltre. Cioè, ok, letteralmente nel primo episodio c'è tipo un montaggio di... cose che succedono, che è come se fosse un riassunto del primo film, però poi vanno avanti. E quindi è tipo il seguito, come se fosse arrivato sulla Terra. Più o meno, sì. Molto carino. Parla di altro, in realtà. Cioè, nel senso, la cosa bella è che non si ferma a parlare di Alien, parla di altro. Parla di androidi, cose, è interessante. L'ultima che vi dico, perché poi se no sto qua tre ore, poi vabbè, in realtà tipo Twisted Metal ne avevamo già parlato, Foundation ne avevamo già parlato. Noi abbiamo visto però la nuova stagione. Vabbè, comunque sono cose che semplicemente sto continuando a vedere a mio malgrado, perché Foundation vorrei smettere, però vabbè. L'unica che davvero vi segnalo, se non l'avete vista, ma sicuramente l'avete già vista perché mi pare che sia su Apple TV Plus, è Shrinking. Se non l'avete vista, mi è venuta l'ansia. Abbiamo visto forse solo il primo episodio. Allora adesso vi convinco a guardarla. Allora, non nasconderò il fatto che è un pochino triste. un pochino piangere. Io ho pianto in un paio di episodi, ma è molto molto divertente, è molto bella. Ha proprio le vibes da Ted Lasso, da un po' da Scrubs, ovviamente rimodernizzata così. Il protagonista è quello di How I Met Your Mother, Marshall. Quindi già, capito, tenerone, super simpatico. Però ci sono tanti altri bei personaggi, bei... Beh, insomma, lo psicologo è cosa? Lo psicologo è Harrison Ford. Che è stato chiaramente preso per fare Harrison Ford, cioè letteralmente lui nella vita reale. Non credo che faccia altro nella vita. No, però super brontolone. Poi c'è anche una scena che, vabbè, che non vi spoilerò. Comunque è bellissimo, è veramente è arrivato in un momento in cui mi serviva e veramente mi ha lasciato... good vibes, diciamo. C'è anche Roy Kent, spoiler, a un certo punto arriva anche quello di Ted Lasso, quindi è proprio Ted Lasso. È nello stesso universo, fa il calciatore. No, è in quella vena lì, diciamo, un po' come Ted Lasso, anche questo un po' fa tristire, però cioè vi lascia con un buon umore, vi lascia... Sempre vai. A me viene un sacco d'ansia, però catartizzante. Vabbè, però vabbè, non dico niente. Diciamo. Dici è una seduta da psicologo, vero? Sì, letteralmente. Va bene, dai. Beh, avete visto il primo episodio, no? Sì. Ok. Vabbè, allora sapete. Un po' di tempo fa, perché è uscito, credo, 2 anni fa. O l'anno scorso. Avevi comprato. È il Mac. Perché avevamo sì, mi sa il Mac, quindi un botto. Sì, sì. No, io ho fatto un anno però. Però mi sa che era la fine dell'anno. Vabbè. Comunque questo. Comunque sì, considerando che a dicembre noi perderemo un abbonamento che è quello di Disney, si potrebbe pensare di rientrare in una Fanculo Disney. Sì, Disney è... No, Disney ormai non lo utilizziamo praticamente. Niente, quindi se vi posso convincere sia voi che chi ascolta a guardare qualcosa, guardate Shrinking. Ci possiamo provare. Dai, su, vuoi una bella? Io ne ho in mente una bella e due brutte, quindi scegli tu. Io ne ho tre, no, quattro. Brutte. Io voglio un sandwich di merda, Salla. Quindi... Allora, cominciando la brutta, faccio io. Poi vai. Vabbè, no, a me se me ne è piaciuto. No, se me non l'avevo neanche pensato. Pensa anche perché non l'ho visto. Tu non l'hai finito. Piaciuto solo a me. Prima brutta, vabbè, parla di Sandman, poi ti do le mie. Ma non c'è niente a dire, sono l'unica a cui è piaciuto, ma tanto l'hanno chiuso, quindi è finita così. No, allora, a me... L'ho guardato, quindi puoi dire quello che vuoi. Cioè. Ah, l'hai finito? No, non l'ho guardato. Ah, non l'hai guardato, ok. Sì, sì, non lo guarderò, penso. A me è piaciuta, niente, carina, e come la prima, lenta, uguale. Da un certo punto, siccome dovevano chiudere, hanno... messo più roba insieme, quindi diventa quasi una serie TV alla velocità normale e niente, è molto bella e mi spiace che l'abbiamo dovuta chiudere. Ci sta. Allora cominciamo dal brutto 1, che è un brutto che conoscono tutti, tanto un brutto famoso, che è Mercoledì. Sì, ma non puoi dire che è brutto, cioè Mercoledì. Ah, attenzione, Mercoledì è brutto. E poi mi dicono hai detto che Mercoledì è brutto e piace a tutti. Esatto. Allora, Jenna Ortega ha rotto il cazzo, perché in realtà lei è brava come attrice. No, è il suo personaggio. È il suo personaggio che è scritto è male. Allora, tu non l'hai vista la seconda? Io non ho visto manco la prima, ancora devo vedere. Okay, vabbè, perfetto. Allora, nella prima, allora, lei è Mercoledì e nella prima era una Mercoledì normale, quindi abbastanza incagabile, perché ci sta da personaggio, però entro certi limiti. Poi è accompagnata da quell'altra tizia, come si chiama lì, Pippa Moby, Pippa Fizza Moby. Dai, come si chiama? Vabbè, quella che Emma ha fatto Mayers anche... Emma Mayers è l'attrice, però... Emma Mayers, e che invece dà un pizzico di vita perché fa un personaggio completamente sproporzionato dall'altro... emotivo e sproporzionato dall'altro lato, e quindi... Diciamo era anche che... la novità, era esatto, carina. Sì, sì. Un po' scontata, sì, prossimo. Vabbè. La prima, dai, ci poteva stare. La seconda, ti giuro, è terribile. Lei è incagabile. Sì, ma non è incagabile alla Mercoledì Adams, è incagabile tipo adolescente. Sì, no, ma è anche incagabile come recitazione, perché visto che deve tenere il muso, fare il broncio e dire non me ne frega niente di voi, cioè non ha senso che lei reciti, perché non... Allora, prendevano un cartonato, lo mettevano lì, con una voce sotto e dice non mi interessa quello che pensi, e andava via. E poi hanno aggiunto un sacco di personaggi, più hanno tenuto tutti i personaggi della prima stagione, anche quelli morti. A parte, quasi tutti, a parte un personaggio, perché l'hanno non è stato rinnovato nel cast. Ah sì? È il tizio che faceva, che stava con la tipa sirena. Ah, tu non te lo ricordi? No, Vabbè, che aveva fatto qua all'inizio, si pensava fosse lui il cattivo. Bla, ma bla. Si dice che lei sia una bella rompicazzo, tra Sì. l'altro. Jenna Ortega. E Che tipo dice, lei si l'hanno permette di dire tipo quello tagliato. non lo voglio, quello mi sta sulle balle, quello Sì. sì, quello no. Davvero? Hanno Wow. tagliato del minutaggio a un personaggio. Al suo Sì. ragazzo. Perché Wow. gli sta sul cazzo. È un bel personaggino. Comunque, questa è la prima brutta. Poi te ne dico una bella che tu dovresti vedere anche se non l'hai mai visto. Io ne ho già parlato nel podcast ed è Jack Reacher. È vero, carina. Cioè, si È chiama vero, solo devo Reacher. guardarla. Lo so, lo so. L'ultima è un po' Abbiamo meno scoperto un carina. altro super fan di Reacher quest'estate. Chi è? Marco. Chi è Marco? De Santis. Ah, Marco De Santis, che salutiamo il podcast, grande fan Ciao, di Reacher. Marco. Che non sapeva di essere fan di Reacher, poi la bambina non dormiva e l'ha guardato tutta la notte. Sì. Ho detto, sì, ho finito la Vabbè, stagione. ma alla fine cioè, è molto cazzone come... Allora, lui si prende sul serio, ma tu lo sai che non è serio. E quindi è bello, bello, bello. Poi te lo immagini sempre mentre Sì. faceva quei telefilm del cazzo che faceva quando era giovane. E quindi guardate Reacher, soprattutto le prime due stagioni, questa terza è un po' più scarica, però non è male. E l'ultima brutta che abbiamo finito domenica. No, Ah no, ne abbiamo iniziata un'altra a brutta. me piace quella nuova. È proprio... Ah. Quella nuova è la ciliegina sulla torta, ne parleremo a fine puntata. Quando tu dirai è ora di finire la puntata, ti parleremo di una serie che tu andrai a vedere già Ok. stasera, te lo dico già. Ok. Perché il trailer non merita. E comunque, l'altra brutta che abbiamo finito domenica è di Shondaland, come si chiama? Ah, Shonda, vabbè, boh, Shyamalan. è la casa di produzione Shondaland. Sì, vabbè, insomma, è loro, eh. E si chiama The Residence. Ma a parte l'ultimo episodio non è Allora, brutta. posso? Certo. Allora, The Residence è una serie TV fatta su un personaggio che è praticamente Benoit di Knives Out. Ah, ho visto il trailer, sì. E più o meno è sulla falsariga. Allora, in realtà è carina, è molto curata, e poi tornerò su questo discorso di molto curata, troppo curata, però cazzo se è lunga, sembra un anime. Cioè, ogni volta ripete quello che è successo prima. Ogni puntata deve ripetere in scenette quello che hanno già scoperto e che è già successo. E riescono a far durare un film come Knives Out, 10 episodi, 8 episodi, 8 episodi. con il minutaggio degli episodi che aumenta mentre lo girano. Quindi, mentre il primo episodio è 40 minuti, 35 minuti, l'ultimo è tipo un'ora e 20. Sì. Esatto. Beh, certo, Sala, è più flashback, come in Cobra Kai, devi ricordare più cose. No, no, tu scherzi, ma è letteralmente così. Metà episodio è flashback. Comunque la gag più bella, cioè l'aneddoto più bello di questa serie è che è stata chiusa da Netflix, ma non perché è andata male, per l'amor di Dio, non è andata malissimo. Poi c'era Adolescence che comunque ha fatto molti più ascolti, altre serie hanno fatto molti più ascolti, eccetera, eccetera. Il problema è che è costata troppo. Hanno ricreato la Casa Bianca tipo uguale uno a uno. Sono non so quanti set, tipo 20 set. 11 milioni di tonnellate di materiale di scenografia. Wow. E quindi niente, costava troppo. Ha detto facciamo che smettiamo la prima stagione, va. Però sì, è bruttina, non ve la consiglio, a meno che non abbiate tanto tempo o non vi prenda. Poi noi abbiamo detto, vabbè, ci mettiamo lì domenica, abbiamo visto tipo tre, sono Episodi, stati sì. 4 ore a guardare una serie TV. Fantastico. Sì, quindi i flashback, figurati, erano proprio ancora peggio. Vabbè. Molto E bene. c'è altro? Tu hai visto qualcosa? Io ho visto della roba brutta che non diremo perché. Perché dillo? No, non si può. Perché Perché? poi mi prendi in giro. Ma lo so che hai visto la roba brutta. Io ho visto Bridgerton con una nuova versione, la versione Apple TV, che è The Ok. Bucanist. Ah, E ho la consiglio sentito. solo a chi è piaciuto Bridgerton perché appunto è molto simile. La prima stagione in realtà è caruccia, la seconda non avevano più il libro su cui basarsi ed è andata come è andata, mettiamola così. Finisce un po', perde un po' tutto di senso. Poi cos'altro ho visto io? Hai visto qualche serie TV coreana? Sì, sicuro, hai visto le serie TV, non hai visto un'altra cosa? No, no, no. Ah, avevo visto, ma tu non ti hai convinto a guardarlo, ma è carina, Running Point, che è Ted Lasso americano. Cioè, non è proprio Ted Lasso, ma un incipit narrativo è molto simile. Con Kate Hudson. Quella è molto carina, è una commedia, molto più commedia di Ted Lasso. Non ha l'aria artistica, ma tipo comedy proprio. Sì, sì, è comedy. Okay. E quella è carina, se hai voglia di una roba leggera, tranquilla, quella è molto carina. E invece abbiamo cominciato due serie TV, no, allora, una abbiamo cominciato insieme, La ruota del tempo, il nuovo, la nuova stagione, e io l'ho abbandonata e ho detto guarda da sola se vuoi, lei ha detto che la guarda da sola, ma è allo stesso episodio, non l'ha mica mai cominciato. No, non sono mai andato avanti. E l'altro che ho provato a vedere è The Bondsman, Bondsman. Okay. Sì, è tipo un cacciatore d'Italia che lavora per il diavolo per catturare i demoni. Che sei sembra molto sala. Mamma mia, la serie TV più da sala della storia. Sembra molto figa, cioè sembra molto figa dal mio punto di vista, invece non mi è piaciuta per niente il primo episodio, l'ho mollato. No, sì. Io ho visto anche Too Much, che però è una serie romance mediocre. Vabbè, siete pronti per la chicca finale, che in realtà è il motivo per cui abbiamo fatto questo episodio? Okay, o Jacopo vai, vuoi aggiungere altre serie? No, no, vai, sono pronto, vai. Allora, è uscita di recente, sta uscendo o è già uscita tutto? No, no, non lo so, ho visto che è uscita di recente, comunque mi ha messo la pubblicità Prime di recente. Su Prime, quindi potete andare a recuperare abbastanza facilmente. Allora, è una serie italo-americana. Ok. No, la premessa è questa, io vedo il trailer su Netflix, aspetta, su Prime, e penso, questa potrebbe proprio piacere a Salla. Adesso io la propongo, quindi ci siamo seduti, faccio allora, io ho due proposte, una è House of Guinness, abbiamo visto il trailer, mi fa no, puoi guardarla da sola. È troppo seria. Ok. La seconda è questa qua, gli faccio vedere il trailer e fa dai, sì, iniziamola. Ok. Io non so se la continuo. Davvero? Madonna, me la sparo tutta domani. No, non ancora, sono ancora indecisa, vediamo, vediamo. Scusate, sto cercando alcune cose, alcune, insomma, se mi dà un... Dov'è? Eccolo qua. Vabbè, no, ve lo faccio io l'intro. Hotel Costiera parla di un hotel. Hotel Costiera, Hotel ok. Hotel Costiera parla di un hotel, appunto Hotel Costiera, sulla costiera amalfitana. E in cui un ex marine italo-americano, Daniel De Luca, lavora e fa il concierge praticamente. Concierge inteso come, visto che l'hotel è di lusso, potrebbero esserci delle cose da fare particolari e lui le risolve, tipo una sorta di Mr. Wolf. Ah, tra l'altro ho provato a vedere una serie tipo Mr. Wolf, ma non mi era piaciuta, con Brad Pitt, e no, forse era un film, vabbè, non c'entra niente. E lui risolve i problemi, e tutto ambientato in questa costiera amalfitana, stereotipo italo-americana, è incredibile, ma tipo, non so, il riccone gli ha rapito il cane per un riscatto e lui va a riprenderlo. Elettra Lamborghini. Sì, è Elettra Lamborghini. Dove lui ha risposto, ma parla inglese. Il cast è misto, nel senso che, allora, Daniel De Luca e Jesse Williams. E non so se hai presente, è in Only Murders in the Building, è l'ex, è quello che c'era nella terza stagione, che si fa Mabel, il regista che faceva il coso, il documentario, esatto. Sì, ho capito chi è. E il cast è misto, quindi ci sono alcuni, pochi in realtà, attori inglesi o americani. E la maggior parte sono attori italiani. Cristo Dio. Ed è incredibile. Cioè, è proprio stereotipo puro. Allora, ti dico solo che è cominciata. Noi di solito guardiamo le serie TV in lingua originale, e di solito sottotitolate in inglese. Io ho dovuto guardare i sottotitoli in inglese perché c'erano due tizi che parlavano in napoletano, non si capiva un cazzo di niente. Cristo. Capivo meglio Jesse Coso, Danny De Luca, che parla in italiano di merda perché lui è americano, che rispetto a perché lui parla italiano, cioè no, nella serie nella parla serie. Italiano. E capivo meglio lui degli attori italiani. E è veramente boh, trash. C'è una trama orizzontale. Sì. Che cercano un ragazzo scomparso. Sì, la figlia del proprietario dell'hotel costiera, e poi hai i casi giornalieri tipo da procedurale base. È praticamente è una devi immaginartela come una serie TV italiana, di quelle brutte però, cioè di quelle proprio all'italiana, però con un budget americano. Quindi tipo un posto al sole, sì, vicino al bagnasciuga, diciamo, cioè una terrazza al sole. Più che un posto al sole avrei detto un Montalbano, neanche, Montalbano è girato troppo bene, uno di quegli ispettori. Cesaroni. Sì, anche Cesaroni. Don Matteo. Anche Don Matteo è fatto troppo bene, mi aspettavo più tipo... come si chiama quello dell'Arcuri? Sì, tipo quello lì, non so come si chiama. Vabbè, quello lì, sì. Quello lì. Quello... Distretto di polizia, come si chiama? Sì, esatto. Oppure anche quello del Provaci ancora prof, no? Che faceva... No, ho sposato uno sbirro, era. Quello di Roma, no? Guarda, sto guardando il trailer in questo momento e la luce, cioè le luci, la fotografia, eccetera, è chiaramente Biascica e Duccio. Cioè esatto, ma c'è lui! C'è lui? Nel primo episodio c'è quello di... Vabbè, che è capitato sul set. È capitato sul set. Allora, io una cosa che apprezzo tantissimo è che gli attori italiani parlano in inglese, parlano in inglese come un italiano. Sì. Cioè nel senso... hanno gli intercalari italiani mentre parlano in inglese. Quello è fatto molto bene. Quindi dice tipo, ehi, e poi continua la frase in inglese. Oppure gli dice la frase in inglese e dice no, alla fine. Qui è tipo Sabrina Impacciatore, come si chiama, quella di White Lotus, che adesso ha fatto anche la serie nuova. Visto. Vabbè, c'è questa qui, italiana, ma sì. Né stereotipo, né proprio finto inglese. Ah, ci sono anche stereotipi inglesi. Sì. C'è il tizio, un attore americano che fa un personaggio inglese con questo accento british stereotipatissimo. Sì, sì, sì. E l'altra cosa figa è che gli attori italiani non sono particolarmente famosi, cioè non sono i soliti stronzi che fanno le serie tipo in Italia. Ok, quindi non c'è Claudio Aggerino e i soliti Scamacci. No, cioè, il più famoso è Coso, è quello lì di quello che fa l'Hotel Capri, il proprietario. Però non mi sfugge anche il nome. Vabbè, il più famoso lì dentro è l'Elettra Lamborghini nel primo episodio. Poi noi abbiamo visto solo il primo episodio. Esatto. Tanto non la riconoscerei, quindi perfetto. Ma cioè, tra l'altro è vestita e truccata in modo normale, quindi non l'abbiamo riconosciuta. E però c'è lui che appunto, cioè questi sono tipo i primi 5 minuti, le riporta il cane e gli dice grazie Elettra. E lei gli risponde tipo prego Elettra. Quindi proprio lo stesso nome, giusto per evitare che si confondesse. Okay. Esatto, quando perché è vestita e truccata in maniera normale, quindi non la riconosci rispetto a quando si vede in giro. Ho capito. Vabbè, è abbastanza trash comunque per piacermi, quindi se non vuoi vederla la guarderò io. Tanto sono 6 episodi, non dura tanto. No, la guardo, dai. Però vabbè, abbiamo visto aspettiamo l'uscita della serie trash, la 2, su Disney. Quale? Non mi ricordo manco il titolo di quella roba brutta. Più Disney. High Potential. Come si chiamava? High Potential. Ma quello è proprio il trash americano invece. No, questo qua è bello perché è proprio... È, sembra un po' gli anni 80 in realtà, non sembra l'Italia di adesso. Come no, dico, come luci, come tipo di fotografia. No, secondo me è più verso gli anni 90. Vabbè, anni 90, tipo, sembra tipo Notte prima degli esami, no? Che hanno rifatto una serie TV, cioè un'ambientazione vecchia in un momento moderno. Quindi ha la fotografia moderna, ma con una scenografia vecchia. Però è comunque ambientata ai giorni nostri. Mm-hmm. È un effetto strano. Non so come dire. Fa il giro. Sì, fa il giro. È incredibile. Poi magari mi stancherà il secondo episodio. Guardate, l'Hotel Costiera è tra i primi più visti in Italia, Prime, ovviamente. Sì, io pensavo che il pubblico fosse, cioè, fosse una serie TV per gli americani. Cioè, con tutte le riprese dai paesini, della costiera, eccetera. Lo sarà anche. Ma non mi aspettavo che gli italiani lo guardassero. Scherzi. Perché fai un po' effetto cartolina. Io posso dire che Sala mi hai fatto venire voglia non di guardarlo, ma di guardare l'ultima serie di Stanley Tucci che gira per l'Italia a mangiare. Quindi vero, per me l'effetto è quello, cioè vedere un po' come ci vedono da fuori, capito? Ma quello mi sa che è serio, invece quest'altro... Questo no. Ma serio... Non lo so, nel senso Stanley Tucci comunque si vede che lo usa come scusa per mangiare, cioè non è una cosa che fa proprio che dici wow, l'Italia è il paese perfetto, cioè si vede che sta qua e dice ah, un'ottima scusa per mangiare la pizza a portafoglio. E non lo so. Ah, vabbè, io ho visto Pesci Piccoli, quella è carina. Vabbè sì, anche Baracchino, insomma abbiamo... Baracchino lo devo vedere, cazzo, porco due, ancora non l'ho vista. È corta, forse mio padre ci ha guardato Ballard. Ma perché sei nell'account sbagliato? No, è il mio di account. Mio. Baracchino l'ho visto e... sì. Mi sa che è corta. Sì, è molto corta, si guarda tranquillo anche se tipo me non sei un amante del stand-up o di alcune comicità, quindi non è che... Vabbè, io non sono è amante della stand-up, quindi perfetto. Vabbè, ma lì c'è Coso, c'è Daniele Tinti, chi c'è? Sì. C'è... C'è il Rapone, sì, so che ci sono tante persone. Capita, è carina. Che cos'è? La serie TV, in realtà è uscita la seconda stagione, che hanno fatto i The Jackal. E ci sono... Ah, sì, me la considero. Fu l'altro, sì, Ciro, sì, sì. E l'altro che non ricordo il nome. L'incipit narrativo è che questa tizia lavora in un'azienda di marketing che ha diverse sedi, questa tizia è tipo un manager nelle sedi principali, durante un meeting con un cliente tipo sclera malissimo e urla in faccia al cliente e allora viene mandata per punizione in questa sede secondaria fuori Milano e da tipo budget stratosferici per le campagne pubblicitarie si ritrova a fare tipo pubblicità per il parquet. Per l'azienda locale di parquet. Con questa gente che è un po' arrangiato, ogni tanto lavora, ogni tanto no. È molto carina, molto simpatica. Quella se hai voglia di una coccola buffa è... Sì, sicuramente sì. Prima o poi... Sì, Prime ormai è diventato thriller o comedy? No, quello è perché l'account è condiviso con i miei e mio padre guarda tutte queste robe, quindi ci consiglia solo più quello. Vabbè. Va bene. Va bene. Ne abbiamo dette un botto. Dai. Niente. Posto. Andate a guardare la serie TV. Evitate quelle che abbiamo sconsigliato. Non guardate mercoledì se ancora non l'avete visto. Ma mercoledì, vabbè, ormai. E niente, noi ci vediamo settimana prossima. Grazie di averci seguito. Grazie per registrato e settimana prossima con un episodio del nostro attore preferito. Settimana prossima. Sì. Ciao ciao. Ciao ciao.